Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia di Natale, auguri che vanno, auguri che vengono. Tra i tanti ricevuti da parte vostra, e di cui vi ringrazio di cuore, uno che arriva da molto lontano, dalla Russia, con la firma illustre di Vincenzo Pincolini. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, intanto arriva dalla Russia perché in questo periodo stai lavorando in Russia, in questo ciclo professionale, ma in questo momento io preferisco pensarti, come credo che sia, sulle dolci colline parmigiane. Certamente, sono a casa fra Salso Maggiore e Fidenza. È Natale per tutti, E poi questa per noi è quello che io chiedo sempre, la nostra pausa estiva, perché il campionato da noi è finito. Certo, e quindi come pausa estiva stai dedicandoti a Nolini, Cotechino, Culatello, che cosa? Beh, un po' di tutto, quelli sono tutto. I profumi di casa, quindi è chiaro che durante la giornata no, la sera davanti al camino, Gigi. Vorrei vedere, tanto più stasera e tanto più domani e comunque in questi giorni. No, dicevo di questa esperienza, io leggo una parte della tua mail perché è stata molto divertente e spiritosa, oltre che piacevole. Leggo, hai scritto campi gelati, infortuni, eccetera, sembra Celentano nel mondo in mi-settima, certo. No? Apro il giornale, leggo che eccetera eccetera. La realtà, tu dici, è che noi a Lokomotiv, quindi a Mosca, nel campionato russo, giochiamo le ultime partite in Siberia a meno 8, meno 10, ma il campo è verde, è perfetto. In Bundesliga i campi sono perfetti, il problema è che a noi ci stanno passando tutti davanti e vi assicuro che anche Bielorussia e Lettonia non hanno i nostri problemi pur non navigando nell'oro. Allora, io non, per carità, non è che voglia farmi del male o fare l'anti-italiano, certo, tantomeno la vigilia di Natale, nemmeno te, però è indubbio che tu questa il raffronto lo puoi fare. Guarda, è incredibile, il calcio italiano all'estero è amatissimo e ad esempio il sabato sera spesso vediamo il primo tempo della partita, dell'anticipo, perché noi siamo avanti 2 ore, quindi per i giocatori poi diventa tardi, allora il mister mi dice il primo tempo, poi li mandi a letto, e per dire, mi ricordo una delle ultime partite viste in anticipo, non mi ricordo quale, sul campo di Genova, i giocatori si stupivano vedendo le zolle che si alzavano e mi chiedevano dove era Genova, e io devo dire sul mare, erano ancora più stupiti, perché effettivamente le immagini dei nostri campi ormai fanno notizie all'estero. È chiaro che è una questione anche di tecnologia, perché tutto sommato io penso che se l'Italia, soprattutto al nord, corresse ai ripari attraverso quelle ormai super extra consolidate tecnologie dei campi riscaldati, che hanno tutti i paesi freddi ormai. Io ho fatto 2 anni in Ucraina, l'Ucraina non è un paese all'avanguardia delle tecnologie, ma la Dinamo di Kiev aveva 2 campi riscaldati per gli allenamenti e normalmente, come abbiamo visto le ultime partite di Champions, sia per dire a Kiev che anche a Rubin, a Kazan, cioè i campi sono riscaldati, sono assolutamente dignitosi, sono anche belli. Abbiamo giocato, come ti ricordavo nella mail, in Siberia, la prima settimana di novembre, a meno 10, con il campo verde leggerissimamente allentato. E d'altra parte poi vediamo i campionati, come ti dicevo, della Bundesliga, quasi tutti giocano su campi riscaldati. In Italia io non ho notizia di un campo riscaldato, soprattutto al nord, pensiamo da Udine a Milano, a Torino. Io credo che ormai, e questo vale anche per gli allenamenti, perché in questi paesi ci si allena su campi che rimangono molto molto buoni, per dire, si tengono proprio i sintetici di ultima generazione per qualche esercitazione, per qualche giorno particolare in cui piove molto, per dei casi estremi, insomma, però non per la routine. Assolutamente no, e per loro vederci così in difficoltà è grandemente di sorpresa, ecco. Ma meno male che è ancora una sorpresa, insomma, io dico, no, egoisticamente, perché il giorno che ci mettono a fuoco un pochino meglio, forse il calcio italiano perderà ulteriormente. Ma secondo me ci hanno già messo a fuoco, attenzione. Io tranquillamente, ormai non è che dobbiamo essere troppo diplomatici, io penso che quando in un campionato le prime 3 squadre della classifica, per dire, giocano molto male, e quando per vedere qualche partita dobbiamo aspettare le serate del Genova, le serate del Napoli, del Bari, del Cagliari, del Bari, del Parma, del mio Parma, per dire, è chiaro che se giocano bene le squadre di centro classifica con dei giocatori chiaramente di fascia diversa, I livelli del campionato sicuramente non sono elevatissimi, insomma. Poi forse paghiamo un po' questo anche con la nazionale, Gigi. Un po' tanto, se è per quello. Senti, la tua esperienza, dopo tutte le esperienze che hai fatto in passato e che ricordiamo bene, adesso mi pare che tu sia stato a Kiev 2 anni. Sì. No? 2 stagioni. E poi da questa stagione che lì comincia... Dal primo giorno del girone di ritorno dell'ultimo campionato russo, ecco. Sei a Mosca al Lokomotiv. Alla Lokomotiv, sì. Che differenze ci sono, per esempio, tra l'Ucraina e la Russia? Beh, ci sono differenze nell'organizzazione generale, nel senso che il campionato russo ormai è un campionato molto bello anche da seguire, perché ci sono 5-6 squadre che possono vincere. Sì. Sono 2 anni che si conferma il Rubin, e io credo che negli ultimi 2 anni, proprio anche per dire senza nulla togliere alla mia società, però l'unica squadra veramente organizzata sul piano del gioco, dell'organizzazione anche della logica dei mercati, sia stato il Rubin Kazan, e tutto sommato ne ha proprio tratto molto vantaggio. Dietro Rubin Kazan ci sono 4-5 squadre, un po' tutte le storiche, diciamo così, proprio dallo Spartak, che è un po' la Juventus della Russia, certo. Lo Spartak, il CSKA, lo Zenit adesso, che economicamente probabilmente è la squadra più forte e che seguiremo, perché arriva Luciano Spalletti, per dire la mia Lokomotiv e la Dinamo, che sono il gruppo di squadra che sicuramente, non so, per il prossimo anno possono partire sicuramente alla pari con il Rubin Kazan per vincere il titolo. Ucraina invece è sempre un testa a testa fra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev, dove lo Shakhtar Donetsk ha più forza economica, la Dinamo Kiev ha un pochino più organizzazione e lavora molto meglio su quelli che sono i tanti talenti dell'Ucraina. Non dimentichiamo che l'Ucraina, se torniamo alla Soviet Union, come chiamano loro, alla vecchia Russia unita, era la culla del calcio. Lobanovskij, la certo. stessa nazionale russa, si allenava a Kiev. Quindi è chiaro che per dire c'è una radice di tradizione e di conoscenze ancora molto molto importante, e ci sono tanti talenti. Non dimentichiamo che quest'estate ha vinto il campionato mondiale a livello di 17 anni. Insomma. Sì, qualcosa vuol dire, è come se vuol dire. Prima dell'intervallo mi piaceva sentire da te così... Come si lavora da quelle parti? C'è differenza professionale tra... Guarda, io ti dico che sono per certi versi tornato indietro, e questo mi ha... Io ogni tanto parlo con gli amici, con qualche anche giornalista italiano, mi dicono: ma come fai ad essere gasato, per dire, lavorando in Russia? Ma io sul piano del lavoro, Gigi, proprio lo dico, ho 55 anni, quindi insomma ormai avevo quasi deciso di fermarmi in un settore giovanile, stavo lavorando a Parma, e per dire, proprio quasi per puro divertimento. Questi 2 anni e mezzo mi hanno dato la carica, perché si torna a lavorare senza tante, come noi diciamo, senza tante pippe, cioè i giocatori arrivano al campo, si allenano dandoci dentro. Ecco, sicuramente la pressione fra una partita e l'altra è forse un po' come anche in Premier League, è molto leggera, sì. Grande pressione vicino alle partite, le partite sono sempre durissime, tiratissime. Il calcio russo è un calcio sia atletico, che sta migliorando sul piano tecnico-tattico, e per dire dove ci si scontra ancora senza tante simulazioni o senza tante sì. scenate, ecco. È un calcio che può diventare bello se la media, proprio le squadre di centro classifiche, riescono a fare un saltino di qualità e a rendere un pochino più competitive non la metà delle partite, ma tutte le partite. Facciamo un breve intervallo per consentire l'aggiornamento del traffico, perché poi, oltre che come si gioca e si lavora, insomma, già che ci siamo e che è la vigilia di Natale, mi piacerebbe sapere anche un pochino come si vive da parte di un italiano bon vivant nella Russia di oggi. Torniamo in compagnia di Vincenzo Pincolini e della sua appassionata cartolina di Natale che ci arriva dalla Russia, dal calcio russo, ma anche dalla società di oggi, da come un italiano 55enne, ce l'hai appena detto Vincenzo, e diciamo bon vivant, perché se arriva da Parma e con quell'accento, con quella R arrotata, non può che essere un bon vivant. Come si vive oggi a Mosca? Ma dai, io dico sempre, dico queste cose, il centro di Mosca non è Mosca e Mosca già non è la Russia, cioè il centro di Mosca che tra l'altro io ho scoperto molto molto bello, palazzi splendidi, musei, tenuto tutto. Poi per noi italiani di vedere il centro di una grande città che sa di storia senza una scritta su un muro, senza un segno, senza un fregino su un muro, già questo certo. ci sorprende, poi ormai... Sicuro. Purtroppo io credo che dobbiamo darci una mossa a tutti i livelli, perché se diciamo che il centro di Mosca è pulito vuol dire che abbiamo delle immagini diverse, ecco. Per dire, a Mosca si vive in modo totalmente occidentale. Io vivo a 500 metri, diciamo, forse neanche dalla Piazza Rossa. Vivo in quel Stary Arbat, vecchio Arbat, che è la Brera di Mosca. E devo dire che ci vivo benissimo, sotto i pittori, i musicanti. È una via dove passano tutti i turisti italiani che vengono, e spesso trovo qualcuno che, sai, col discorso del calcio, soprattutto del Milan, che mi conosce, salta e stupito fuori. Mi chiede: cosa fai da queste parti? Come cosa faccio? Sono qua alla locomotive, cioè, e tra l'altro stiamo... Faccia meno positiva, dici, un traffico incredibile. Sì. Che va studiato, cioè bisogna sempre cercare di muoversi o in metropolitana, che è fantastica, o quando andiamo a lavorare, per dire, ci muoviamo un po' in controtendenza, un po' come succedeva ad esempio a Milano per il Milan o per l'Inter, che i giocatori escono da Milano quando gli altri entrano ed entrano un po' quando gli altri escono, ecco, insomma. Se si sta un po' attenti al traffico, per il resto ti può non mancare niente, ecco. Chiaramente io la famiglia ce l'ho a Salso Maggiore, perché mia figlia fa liceo, quindi per dire, mi può mancare la famiglia, come in questi discorsi, però dal punto di vista del lavoro è un'esperienza molto bella. È importante arrivare in Russia con un buon curriculum, nel senso che loro rispettano gli anni passati al Milan piuttosto che in grandi squadre, ecco. Sì. Loro, se capiscono, tu puoi dargli, io ho sempre preso sia in Ucraina che in Russia dei collaboratori locali, e soprattutto in Ucraina, adesso a Mosca ho un ex giocatore che mi sta aiutando, ecco, queste sono cose che ti legano molto a loro, perché fai vedere che vuoi aiutarli. Io, i tre ragazzi che avevamo preso alla Dinamo di Kiev all'università direttamente, che poi sono diventati in due anni autosufficienti, mi hanno dato anche, attraverso, per dire, la stampa, proprio una grande immagine, perché mi davano un po' l'immagine quasi del professore che... E allo stesso modo alla Locomotive il fatto di lavorare anche sulle seconde e terze squadre, per dire, rompe quel confine che delle volte si crea, che lo straniero arriva lì per guadagnare soldi. Certo. Io spero che sia in ascolto, chissà, Luciano Spalletti, se no gli faremo avere questa registrazione, perché mi pare che i tuoi siano consigli molto interessanti. Mi restava una curiosità in particolare. E lui arriva in una società dove, ecco, io credo che per essere un po' giramondi è chiaro che ci servono delle chiavi, le prime chiavi sono le lingue. Sì. È chiaro che adesso sto per dire, Yadolgen Gavarit Paruski, io devo parlare russo per dire, soprattutto sul campo, ma sul campo è abbastanza facile. Sì, ecco. Certo. Poi ti piace, se riesci, secondo me quando tu sei all'estero devi sempre entrare nello spirito loro, non ti puoi creare delle piccole Little Italy, hai capito? Per cui, per dire, ad esempio, io ho un inglese che ormai che ho migliorato molto anche in Russia, che chiaramente era un inglese per dire che usavo così per i contatti, il francese della scuola, lo spagnolo dell'Atletico di Madrid, perché noi abbiamo in Ucraina avevo 13 nazionalità diverse in squadra, qua ne abbiamo 7 o 8, e ad esempio con i giocatori africani aiuto l'allenatore parlando il francese a parlare con loro, e con il gruppo dei brasiliani non parlo il portoghese, però con lo spagnolo ci si aiuta molto, insomma, ecco. Pure poliglotta ci sei diventato, Vincenzo. Ed è stato un esercizio che ti assicuro che dopo i 50 hai presente quei giochini per stimolare la mente. Quello è un giochino che stimola la mente. Vabbè, insomma, come cartolina di Natale mi pare che la tua sia simpatica ed esauriente. Ci aggiungerei il fatto che per mantenerti in forma quanti chilometri continui a correre al giorno? Corro sempre, ma piano. Corri piano, ma corri. Sai, quelli, oggi ero a correre con un amico giornalista della Rai, Luca Ponzi, qua, che è di Rai 3 di Bologna, che è uno dei miei miei più cari amici. Sì. E abbiamo fatto nella neve, è splendido, con quel silenzio che ti dà la campagna. Ah, certo, e certo. Proprio piano piano, è ritempranza, insomma. Sì. Anche se oggi, tutto sommato, guardandomi in giro, potevo essere anche in Russia. Sicuro. Peccato ti sia suonato il cellulare nella tasca per questa convocazione, insomma. Vi ha interrotto un po' il ritmo, Questo è un piacere, e ti ricordo che vi ascolto anche di là, perché ormai veramente con tutto l'etere che c'è in internet è un piacere anche seguire le trasmissioni che ti piacciono. Grazie Vincenzo, un abbraccio e un caro augurio di Natale. E ne approfitto per fare tanti auguri a tutti gli amici del calcio, e che il calcio sia un po' meno stress e un po' più bello, Gigi, come piacerebbe a noi. Come hai vissuto lì e come piacerebbe che fosse anche da noi. Certo. Grazie Vincenzo. Un salutone, arrivederci. Ciao. Buona giornata. Salutato e ringraziato Vincenzo Pincolini per questa prima cartolina di Natale, della vigilia di Natale. Ce n'è una seconda che arriva da più vicino, ma che non è meno interessante e direi affascinante nel suo genere. Arriva da Bellinzona ed è firmata Alberto Cavasin. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Senti, noi ti avevamo lasciato a Brescia in preda, diciamo pure, a qualche nevrosi, no? Che poi sono ricorrenti abbastanza del presidente Corioni. Ti ritroviamo in piena Svizzera italiana, dove hai preso in mano le sorti del Bellinzona e dove, immagino e ti auguro, ci sia, se non altro, un pochino meno di stress. Sì, sono uscito da Brescia perché in una settimana è cambiato un po' tutto quello che stava succedendo, però insomma è abbastanza un classico del calcio, sì, italiano. Anche in generale, ed è Brescia in particolare, se vogliamo. Sì. Però il mio desiderio era quello di continuare a lavorare, e sapevo che potevo farlo solo all'estero, e nel giro di solo 20 giorni mi ha chiamato una persona e mi ha fatto la proposta del Bellinzona. Tanta la voglia, sono andato a vederlo e difatti ho visto che ha perso 7-0 contro il Grasshopper, e come l'ho vista non ho tenuto conto di quella partita perché era una squadra che era molto in difficoltà, però ho parlato con il presidente Giulivi, col direttore sportivo De Gennaro, e io avevo gran voglia di lavorare e abbiamo trovato subito un'intesa che era quella di prendere in mano questa squadra che chiaramente era in grande difficoltà. Però c'era tanto entusiasmo in queste persone e una grande passione in questa città di 18.000 abitanti che va allo stadio in 6, 7, 8.000, si è trovata con un esodo a Basilea a giocarsi la colpa di Svizzera in 10.000, quindi ho detto ha fatto venire anche i cani, qualche certo. Sono andati con tutte le famiglie, si sono portate, è stata una cosa. Quindi ho capito l'intensità e il piacere di attorno a questa squadra, e questa è stata la molla che mi ha fatto sì di accettare, di iniziare questa bella storia. Alberto, è una storia, dunque, il campionato svizzero, un po' alla maniera di quello russo, anche se non negli stessi termini, ha un altro calendario rispetto al nostro, cioè adesso siete fermi da quanto e fino a quando? Noi siamo fermi da domenica 6 dicembre, sì. Siamo fermi fino al 6 febbraio, quindi sì. Adesso è praticamente lo stop dell'estate, quella italiana, certo. Giugno fine agosto, settembre, quindi stiamo fermi un mese, i ragazzi sono praticamente in ferie, sì. Noi riprendiamo il 4 gennaio per fare un mese di preparazione e poi partire per il campionato, che sono 18 partite fino a metà maggio. Esattamente a immagine e somiglianza di quello italiano, con questa partenza di un mese di ritardo dovuta a condizioni meteorologiche, atmosferiche, insomma, consolidate. C'è un luogo comune che, prima poi di continuare con la cartolina da Bellinzona, mi piacerebbe sfatare subito. Cioè c'è questo sopracciglio all'insù con cui il calcio italiano guarda quello svizzero. Però quando poi si arriva ai confronti diretti, nazionale compresa, sto sopracciglio all'insù forse è il caso di abbassarlo ogni tanto, Sì, noi siamo i campioni del mondo e se non arriviamo primi, arriviamo entro le prime quattro in tutte le manifestazioni, questo sicuro. Però il movimento, il calcio che c'è in Svizzera oggi non è un calcio secondo, molto, molto lontano dai calci, dal calcio dei primi posti. La nazionale svizzera si è qualificata ai mondiali in Sudafrica, la nazionale Under 17 campione del mondo, tutta l'Italia nelle qualificazioni, c'è un movimento di settore giovanile molto importante, molto seguito, e le ultime condizioni di squadre svizzere in Coppa. Lo Zurigo l'abbiamo visto col Milan, pareggiare col Milan, con la Roma. La Roma ha dovuto anche, ha perso in casa del Basilea, quindi è un calcio che è un calcio che è di valore, non è un campionato secondario, non ha grande visibilità per i media, però è un campionato di qualità con dei bilanci anche molto importanti, con delle gestioni importanti, perché c'è seguito di tifosi, ci sono la media di 15-20 mila, ci sono stati da 30 mila che sono esauriti tante domeniche, ci sono stati ottimi perché vengono dagli europei, all'avanguardia come in Italia, certo. In tante parti d'Europa non ci sono terreni, certo, riscaldati, ambienti molto, molto agevoli per le famiglie, proprio bellissimo sotto questo aspetto, è un campionato bello, importante. Tant'è vero che se parliamo di pura affluenza allo stadio, se ragioniamo in quei termini, credo che siamo noi che abbiamo qualcosa da invidiare alla Svizzera e non viceversa, facendo il rapporto tra le varie popolazioni. Tra l'altro il Bellinzona di Alberto Cavasin è rimasto l'unica società della Svizzera italiana a tenere alto, diciamo, pure il blasone di questo terzo di confederazione rispetto allo strapotere, diciamo pure calcistico, delle squadre svizzero-tedesche o svizzero-francesi in alternativa. Però Alberto, è una bella avventura, è certamente un calcio che ha meno stress, ci hai raccontato a grandi linee la dimensione e lo spirito, ma il tentativo di salvarlo sto Bellinzona bisognerà poi pur farlo, immagino. Certo, siamo andati lì per fare, viviamo di risultati, si vede di risultati anche lì. Noi siamo penultimi, siamo staccati di 8 punti da quelle che dobbiamo raggiungere, perché il terzultimo posto garantirebbe la salvezza. Sì, quindi è chiaramente un'impresa, perché effettivamente queste squadre, una tra le altre cose, è lo Zurigo, ma penso che quella spiccherà il volo non avendo più le coppe. Sono squadre attrezzate, però io penso che il nostro gruppo possa competere, se la possa giocare. Poi abbiamo, chiamiamolo così, un paracadute, perché è l'ultima che c'è già una squadra, la Rau, che è dietro di noi di 8 punti e nel campionato svizzero retrocede una, più dopo la penultima fa lo spareggio con la seconda della B, quindi noi pensiamo di salvarci senza fare lo spareggio. Sapete che avete il paracadute del play-out, insomma. Il play-out, sì. Adesso si tratta di rigenerare questo gruppo, di lavorare e poi vedere nel nuovo campionato, perché penso che sia proprio nuovo, dopo una sorta di 2 mesi, effettivamente i valori dovrebbero essere anche un po' cambiati rispetto a quello che è stata la prima parte del campionato. Insomma, siamo fiduciosi, andiamo, lavoriamo, il gruppo è serio, ripeto, la società ci è vicina, ci dà quello che ci serve, tifosi li abbiamo, sono già contenti di quello che sono state le ultime 2 partite, anche se io gli ho detto, insomma, l'ultima l'abbiamo persa, no, ma va bene, siamo contenti, abbiamo visto bene, ci piace, così, insomma. Senti, però non, cioè io credo che, no, correggimi se sbaglio evidentemente, ma per uno che arriva dal calcio italiano, che ha fatto esperienze a medio e ad alto livello nel calcio italiano, che ha vissuto ultimamente confrontandosi con lo stress, per esempio, di Brescia, del Brescia, di quella società, eccetera, io credo che sia una tappa rigeneratrice nella carriera di un professionista, no? Poi di qualsiasi settore, di qualsiasi materia si occupi, a maggior ragione se si occupa di calcio, oppure un po' di adrenalina ti manca in un ambiente così sereno? No, non mi manca l'adrenalina, perché ne devo dare tanta. Perché ce l'hai tu, ce l'hai incorporata. Io devo moltiplicarla anche, perché insomma un po' di adrenalina bisogna darla, ma l'adrenalina è la continuità del lavoro, che nella quotidianità che devo fare, quindi è bello, sono coinvolto per parecchie ore al giorno nel mio lavoro, e trovo sempre delle corrispondenze molto, molto belle, molto positive, c'è una richiesta di quello che io faccio, e quindi questo mi fa sempre star bene in ogni situazione, non mi mancano i media, anche se anche lì quotidianamente ce n'è più di qualcuno, ci sono delle abitudini molto diverse, non ci sono le conferenze stampa, ma c'è la telefonata alle 8 del mattino, potrei parlare, potremmo parlare, che un po' mi spiace perché ci sono delle abitudini diverse dove le cose venivano gestite un po' in maniera diversa, come le abitudini un po' più con dei tempi diversi, però non sono cose che danno noia. E sono cose belle perché comunque c'è professionalità, c'è molta serietà, quindi c'è molto rispetto dei ruoli, dei budget, E noi abbiamo un budget proprio minimale rispetto a tutte le altre squadre, però il direttore è molto bravo ad attingere a squadre che hanno degli esuberi e attinge sempre su dei giocatori che si devono rilanciare, che hanno voglia di fare bene. E quindi abbiamo un parco giocatori che riteniamo sia sufficiente per rimanere ancora in Premier League svizzera. Come si augura il primo dei tifosi del Bellinzona, che è un italiano, che è il presidente Giulini, che vive e opera a Milano e che da un paio o tre di stagioni ha rilevato questa società e coinvolgendo appunto un pochino gli italiani, ultimo dei quali Alberto Cavasin. Alberto, io ti ringrazio molto per questa cartolina che arriva da Bellinzona e che raffigura il Bellinzona e il modo di vivere il calcio che c'è lì. Grazie a voi, buon Natale. La terza cartolina di Natale, dopo quelle di Pincolini da Mosca e di Cavasin da Bellinzona, arriva da molto più vicino. Arriva da Sky Sport 24, da dove abitualmente ci raggiunge Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno Gigi. Buon Natale anche a te. Tanti auguri a te, a tutti, alla redazione anche. Da te ci aspettiamo innanzitutto una mini guida al calcio giocato di queste vacanze, perché noi siamo fermi, ma non dappertutto è così, come è noto. No, assolutamente. Ora cominciamo dagli inglesi, perché in questi giorni è la Premier League che terrà banco. Ovviamente viene fatto salvo il giorno di Natale, quindi domani non ci sono partite, ma il 26, che per molti degli italiani è il giorno del pranzo con gli avanzi del Natale, piuttosto che del cinema, per gli inglesi è il Boxing Day, si chiama Boxing Day, ed è il giorno delle partite di calcio. Quindi ci sono tante partite. Si comincia alle 13:45 a Sant'Andrews con quella che credo sia la partita più interessante del giorno, cioè il Birmingham City, che sta facendo un grandissimo campionato, sicuramente superiore alle attese, contro il Chelsea, e il Chelsea non vive un momento particolarmente brillante, quindi io credo che a Sant'Andrews la squadra di Ancelotti possa anche rischiare qualcosina. Credo che emotivamente partecipiamo tutti a West Ham Portsmouth, che è una sfida davvero da OK Corral tra appunto la squadra di Zola e il Portsmouth. Penso anche che la partita del giorno sia quella delle 16, quindi anche in un orario post-prandiale comodo, e cioè l'esordio di Roberto Mancini al City of Manchester Stadium contro lo Stoke City. Quella, direi, è una partita da non perdere per mille motivi. Certo. Si chiude con Liverpool-Wolverhampton alle 18:30 ad Anfield, quindi direi che il pomeriggio del Boxing Day mi sembra abbia un menù particolarmente interessante. Sì, certo. E per i calciomani non sollecita pomeriggi particolarmente dinamici. Amici, direi, no? Da questo... No, anche perché il calcio inglese è proprio l'antitesi del pisolino pomeridiano, certo. Nel senso che anche quando le partite non sono magari il massimo, però sono sempre atleticamente interessanti, quindi è difficile assopirsi. Succederà, credo, anche domenica, perché le partite che sono in programma sono alle 14:30 Arsenal-Aston Villa, che del turno complessivo è forse la partita più bella, perché queste due squadre stanno lottando. Sì, come no. Tra il terzo e quarto posto. E poi comunque alle 17 c'è al City Manchester United, insomma al City magari non tantissimo, ma il Manchester United una visita la merita soprattutto in questo periodo, perché eravamo abituati che comunque col Manchester alla fine si sapeva come andava a finire, sì, invece esatto. Adesso non si sa più molto, e poi mancano poi un paio di mesetti, no, a queste sfide incrociate con le come italiane, no? E quindi un'occhiata gliela si comincia a ridare. Poi vanno avanti in Inghilterra a giocare? Giocano il 28, il 29 e il 30, di fatto ci sono due tour che sono spalmati su 5 giorni, quindi il 26, 27, 28, 29 e 30 ci sono sempre partite. Il 28 vi posso segnalare il derby di White Hart Lane tra il Tottenham e il West Ham, sono giorni molto delicati per Zola, perché prima il Portsmouth in casa e poi il Tottenham in trasferta, non sono partite da perdere. Poi la seconda partita di Mancini, gioca questa volta in trasferta alle 20:45 contro il Wolverhampton. Vi segnalo, il Chelsea fa il derby classico col Fulham, però il a Stamford Bridge giocano, però attenzione perché il Fulham ha già battuto il Manchester United scorsa settimana, quindi stare attenti. E poi invece per quanto riguarda il 29 vi suggerisco Aston Villa Liverpool, si gioca alle 20:45. Per quanto riguarda il 30, ultima partita dell'anno, giocano il Portsmouth con l'Arsenal a Fratton Park, e alle 21 Old Trafford Manchester United Wigan, quella è proprio l'ultimissima partita del 2009. Poi il San Silvestro si rallenta e con l'anno nuovo, poi succederà qualcosa certamente anche in Inghilterra, ma visto che il tempo comincia a stringere, perché mi pare che in un paio di minuti più o meno dobbiamo chiudere, mi pare che con l'anno nuovo ci sia questa grande novità, che subito dopo Capodanno torna il calcio spagnolo. Sì, quello a cui accennavi tu era il terzo turno dell'FA Cup, il 2 e il 3 giocano in FA Cup, perché gli inglesi naturalmente non possono il 2 e il 3 riposarsi. Non si riposano nemmeno gli spagnoli, sono vacanze corte in Spagna, perché sabato 2 e domenica 3 c'è la 16ª giornata. Vi segnalo Barcellona-Villarreal, non una bruttissima partita, no. E occhio a Real Madrid a Pamplona contro lo Osasuna, e qui insomma i punti di differenza sono 2, per cui davvero qui ogni partita può ribaltare la situazione. Per quanto riguarda il Siviglia, gioca a Madrid contro l'Atletico, insomma sono partite tutte molto molto interessanti. Loro non giocano la Befana, hanno deciso di giocare comunque nella coppia canonica di giornate sabato e domenica, quindi il 2 e il 3 riprende la Spagna, e che quindi anticipa anche l'Italia, che invece riprende il giorno della Befana. Sì, l'ultima curiosità è che tutte queste insomma variazioni sono dovute in realtà all'anno del Mondiale, evidentemente. Sì. Tant'è vero che anche in Francia e in Germania, se non sbaglio, pur non essendo partite da strillare adesso, perché restano comunque lontane, però quei lunghi intervalli invernali non ci sono quest'anno. No, perché ricominciano a metà gennaio, sia la Francia che la Bundesliga cominciano nel weekend 15-16 gennaio, quindi di fatto semplicemente 10 giorni dopo l'inizio dell'Italia, considerando anche che la Francia ha avuto un turno molto sotto Natale, perché hanno giocato anche il 22-23, quindi quest'anno davvero l'unico campionato che ha mantenuto la propria vacanza lunga è stato quello italiano. L'unico campionato che ha confermato invece il proprio raddoppio, o se no addirittura di più, di impegni è il campionato inglese. Invece i tedeschi, gli spagnoli e anche naturalmente i francesi hanno un po' cambiato quest'anno, ovviamente in proiezione mondiale. Senti, altrettanto ovviamente, Fabio, tutto quello che ci hai illustrato, che ci hai anticipato in questo calendario sarà in diretta sulle vostre reti. Insomma. Sì, ovviamente trasmetteremo la maggior parte delle partite del campionato inglese, tra l'altro con una collocazione oraria molto favorevole, perché ad esempio il giorno del Boxing Day, al posto di proporre, ma questo è merito naturalmente della Football Association e di BSKB, al posto di proporre 4 partite allo stesso orario, ve ne possiamo proporre 4 in 4 orari diversi, e quindi davvero le potete vedere tutte. Ora io non pretendo che nessuno, credo che nemmeno Tom Mockridge pretenda che si guardino tutte le, però credo che insomma ci sia la possibilità di divertirsi, e quindi siamo molto contenti di proporvi questo. Non c'è nessun dubbio. Buon Natale a Fabio Tavelli. Tanti auguri Gigi a tutti voi. Grazie. Allora chiudiamo anche questo terzo appuntamento della vigilia. Le prime due erano cartoline illustrate, come avete potuto notare. La terza era una cartolina di informazioni che credo siano preziose. La quarta, che seguirà questo intervallo, sarà una cartolina d'autore di genere un pochino diverso, ma non meno esotica rispetto alle prime. Tra tante cartoline anche un Elzeviro, quello classico, storico, che riguarda la data, che cosa è successo in un 24 dicembre di chissà che anno, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 dicembre 1950. La 16ª giornata di campionato è all'insegna degli Hansen. 3 giocatori con questo cognome, tutti danesi ma non legati tra loro da rapporti di parentela, vanno infatti a segno nel turno natalizio. La Juventus espugna con un 3-0 il campo del Genoa, grazie a una doppietta dell'attaccante John e a una rete del centrocampista Karl Age. A Bergamo, invece, il terzo Hansen, Sven de Jorg, mette a segno 2 reti, che però non evitano all'Atalanta una pesante sconfitta per 7-4 contro il Milan. Una parentesi d'autore, anzi d'autrice, in queste ore che precedono il Natale. Bentornata tra noi a Lea Pericoli. Grazie Gigi, è veramente un affettuoso benvenuto per me. Senti, stavolta Donna Lea, lo dico agli amici ascoltatori, non è qui né come tennista, né come golfista, né come radio telecronista, ma come scrittrice, che è un'etichetta per te non inedita, ma che certamente esce rafforzata da questo tuo ultimo libro che si chiama Mal d'Africa, I ricordi della mia vita, appena pubblicato da Marsiglio. Prima domanda, che cosa è Lea, il Mal d'Africa, per una non più giovanissima ragazza cresciuta tra Somalia, Eritrea, Abissinia, Etiopia di tanti tanti anni fa? Ma guarda, è una tenera melanconia per tramonti, ricordi. Io dico sempre che sono stata una donna molto privilegiata perché ho avuto un passato bellissimo, vissuto in un mondo ormai scomparso, quello delle colonie, capito, un'epoca ormai lontana che guardo con infinita nostalgia. Anni trascorsi in paesi stupendi come erano allora l'Etiopia, l'Eritrea, il Kenya, la Somalia. Questo è, diciamo, il sunto di quello che io ho voluto mettere in Mal d'Africa, per spiegare che è una malattia che può colpire tutti, può colpire anche il turista che va in Africa soltanto per una settimana, ma che ovviamente per chi ha vissuto l'Africa, come è capitato a me, rimane inciso dentro al cuore come una profonda ferita. Senti, ed è una ferita che immagino venga rinnovata ogni anno quando tu... perché alla tua visita africana almeno annuale mi pare che tu non sappia rinunciare, vero? No, non rinuncio, anche perché io non ho mai amato il freddo, essendo cresciuta in Africa. Hai questo grande vantaggio che non ci sono, cioè sì, ci sono le grandi piogge, almeno in Est Africa, ma non c'è mai questa cosa di tristezza, le foglie che cadono, a me l'autunno mette un'infinita melanconia. E invece tornare in quei paesi per me è come rivivere. Certo. Questo me lo immagino bene. Senti, la struttura del libro in realtà è quella del romanzo, tipica, perché per la semplice ragione e buonissima ragione che la tua vita è stata un romanzo. Ho trovato assolutamente centrale la figura di tuo padre. Indubbiamente, io ho avuto un padre incombente, un padre un avventuriero, perché era un uomo pieno di iniziative. Lui ha seguito le truppe da civile cercando fortuna in una colonia che l'Italia stava conquistando, ha trovato e poi è riuscito a far fortuna, ma le vicende sono tante, sembra veramente un romanzo, perché venne fatto prigioniero dagli inglesi, poi risalvato dall'imperatore e poi ricominciò tutto da capo e perse tutto in Etiopia, però non contento andò in Somalia perdemmo una meravigliosa piantagione, cioè per l'Africa per lui fu distruttiva. Quindi a un certo punto dovette tornare in Italia e ricrearsi una vita ben diversa. Poi ovviamente col passare degli anni si ammalò e non riuscì a morire in Africa, cosa che avrebbe voluto fare. Lo scrivi molto chiaro in maniera struggente. Poco alla volta, in questa vita nelle colonie, altalenante, come già ci hai raccontato, da tanti punti di vista, a seconda del momento in cui la famiglia, e tuo padre in particolare, era sugli altari oppure rischiava la polvere, un bel giorno, poco alla volta, si fa strada il tennis nella tua vita. E si fa strada in una maniera abbastanza curiosa, di nuovo con un padre che prima ti regala una racchetta e che poi addirittura trova il modo di sgonfiare le palline. Io questa vorrei che la raccontassi. No, ma il fatto è che noi in questo magnifico giardino che avevamo, con un parco di 2000 metri quadri, stupendo, papà era un appassionato di tennis, perché quando faceva lui viaggiava vendendo, faceva il venditore, rappresentante di commercio qui in Italia, e aveva sempre la racchetta presso, aveva una gran passione per questo sport. E allora fece costruire un campo da tennis nel nostro giardino, tra l'altro triturando i mattoni, era una cosa abbastanza insolita, perché dopo la guerra non c'era niente in Etiopia, e quindi io cominciai a prendere in mano una racchetta, ma Addis Abeba, essendo oltre 2500 metri d'altezza, le palle pressurizzate saltavano altissime, era molto difficile giocare. Allora lui le sgonfiava con un ago, sai l'ago per fare le iniezioni? Sì, certo. Però era abilissimo perché dovevano essere tutte uguali. Ah, si capisce. Quindi si era inventato questa cosa. Non male. Poi la vita scorre, i tuoi ricordi poco alla volta escono dall'Africa e arrivano a quei tre anni, secondo me, decisivi per la tua vita futura. Nel 73 decidi di diventare la prima testimonial della storia della lotta contro il cancro, avendoci tu, purtroppo per l'epoca, avuto a che fare. L'anno dopo debutti come columnist sul giornale di Indro Montanelli e nel 76 debutti come telecronista a Tele Monte Carlo. Beh, insomma, credo che quando ho detto che la tua vita è stata un romanzo, credo che questi tre episodi, soprattutto il primo, nel giro di tre anni, qualcosina giustifichino. È vero, anche perché io non mi reputo una donna coraggiosa e affrontare il cancro, siccome allora era all'inizio quando si cominciava a dire alla gente che cos'era questa malattia, e siccome io ne parlavo per liberarmi da tutti i miei incubi, dalle paure eccetera, Umberto Veronesi, che era allora presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, mi mandò a chiamare dicendo: ma come mai lo racconti? E io gli spiegai che mi aiutava a sopravvivere. Era come se tu giochi una partita su un campo da tennis e hai tanti tifosi, e io ne avevo tanti che speravano che guarissi, quindi mi sentivo confortata. Io l'ho considerato questo un grande dovere, e continuo ad affiancare la Lega, la ricerca, perché credo che sia molto importante. Come un match di tennis, ognuno mette un 15, alla fine si vince. Sì, se siamo in tanti ce la facciamo, questo è uno dei motti della Lega. Bellissimo. Poi per il resto sono stata molto fortunata, ho avuto la fortuna di scrivere per il giornale che ho amato infinitamente, Montanelli è stato il mio grande maestro e questo lo ritengo un grande privilegio. E poi nacque la televisione, l'avventura legata al giornale con Tele Monte Carlo, fece sì che scelsero me con grande coraggio, piuttosto che prendere dei giornalisti già affermati che facevano questo mestiere. L'ho detto che era una vita, è stata una vita come un romanzo, a cui certamente mancano ancora un sacco di capitoli che poi scopriremo prossimamente, sempre nel solco un pochino, anche se tu sei una donna attivissima e molto precisa nelle tue cose, sempre nel solco, per tornare a Mal d'Africa, per chiudere, nel solco di Eshin Aga. Vorrei che traducessi questa stupenda espressione che tu citi a ripetizione nel libro, che è un modo di dire africano che secondo me, pensando al futuro, ci aiuta. È vero, Eshin Aga in amarico significa va bene anche domani. Quindi in Etiopia il tempo non ha valore, ma non solo in Etiopia, diciamo in Africa. Capito? Intanto queste stagioni che in fondo tutto sommato non cambiano mai, e quindi si vive con molta lentezza, con molta tranquillità. Ai miei tempi io chiedevo alla mia tata, dico: ma quanti anni hai? E lei diceva: ma 20, 30, forse 40, chissà. Oltretutto il calendario etiopico è fatto di, lo chiamano, viene chiamato fatto di 13 mesi di sole, capito? Che è un'immagine molto pittoresca, molto bella, è diverso dal nostro, e loro, sbagliando a contare, a un certo punto sono trovati 8 anni dietro al nostro reale calendario, quindi tutte le feste sono doppie, anche se è un paese cristiano, perché sono copti, e quindi la cosa fantastica è, pensate che meraviglia, se io abitassi là o quando torno là ho 8 anni di meno, e com'è relativo anche il tempo. Certo. In Etiopia non c'è fretta, in Africa non c'è fretta, va bene tutto, va bene anche domani. Eshin Aga. Eshin Aga, straordinario. Io agli amici in ascolto dico che in questa vigilia di Natale, se per caso è diventata un po' convulsa e manca una lettura dell'ultima ora, last minute, come dicono quelli più colti, Lea Pericoli ha scritto Mal d'Africa, i ricordi della mia vita, edito da Marsiglio. A Lea Pericoli davvero un affettuoso e grande abbraccio. Grazie Gigi, auguri a tutti coloro che ci ascoltano, buon anno, e non dimenticate che il tempo è qualcosa di relativo, quindi anche per quelli che non sono più giovanissimi c'è sempre una scintilla di speranza. Grazie Lea. Grazie a te. Una vigilia di Natale dunque trascorsa in compagnia di Vincenzo Pincolini, poi di Alberto Cavasin, poi del nostro Fabio Tavelli e infine di Lea Pericoli. Grazie a tutti loro, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon Natale.